Benvenuti a tutti e a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Oggi giovedì 23 giugno, sono le 15, parte Tracce di Cinema. David non è con noi per motivi personali, ci lascia per un po', speriamo che torni, qui lo aspettiamo sempre con affetto e gioia e già ci manca. Io, caro Fede, oggi c'è questa leaflet che vale anche per me: 3 giorni di pace, amore e musica. Li vorrei pure io, perché non ne posso più, sono stanca. Si vede la faccia? Sì. Gli ascoltatori meglio che non mi vedono. E tre giorni di pace, amore e musica, questa è la citazione che faccio per annunciare il film di oggi, che è Motel Woodstock del 2009 di Ang Lee, regista molto eclettico, no Fede? Sì, sì, sì, veramente un film insolito nella panoramica della sua opera. Sì, sì, ha fatto un po' di tutto e poi magari ne parleremo con il nostro ospite. E è un bel film, una colonna sonora straordinaria, c'è di tutto, si passa dai Doors a Janis Joplin, John Baez, Jefferson Airplane, insomma tutti i vari protagonisti che sono stati presenti durante il mitico concerto che si tenne proprio a Woodstock. Percorreremo la colonna sonora di questo film con anche dei pezzi che non fanno propriamente parte della colonna sonora, ma che noi abbiamo scelto perché comunque sono, diciamo, testimonianze proprio di quel periodo e di quel concerto in particolare che si tenne. Sicura che non fanno tutti parte della colonna? Sì, fanno parte della colonna sonora, però non sono i pezzi originali della colonna sonora. Ok. Sì, sì. Sono abbiamo preso qualcosa proprio di originale da Woodstock. Sì. Alcuni dei gruppi neanche parteciparono. No, Doors infatti non parteciparono, i Love non parteciparono, ma insomma fanno comunque parte della colonna sonora, di cui poi parleremo un pochino in modo più approfondito dopo questo pezzo. Perché partiamo proprio con il brano di apertura di Woodstock. Sì, il brano di apertura di Woodstock del concerto, che è High Flying Bird di Richie Havens. Sì, e poi magari vi raccontiamo anche qualcosa su questo brano e su questo grandissimo cantante e musicista. Flying bird, flying way up in the sky, and I wonder if she looks down and she goes on by. Well, she's flying so pretty in the sky. Lord, look at me here, I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Now the sun, it comes up and it lights up the day. And when he gets tired lord and goes on down his way to the east and to the west. He leaves God every day. Lord, look at me here. I'm rooted like a tree. Got to sit down, can't cry. Oh, Lord, gonna die blue. Now I had a woman, Lord, she lived down by the mine. She ain't never seen the sun. Oh, Lord, never stopped trying. Then one day, my woman up and died. Lord, she up and died now. Oh, Lord, she up and died now. Hey, she wanted to fly, and the only way to fly is to die, die, die. Well, there's a high flying bird flying way up in the sky. And I wonder if she looks down as she goes on by. Well, she's flying so freely deep in the sky. Yeah, Lord, look at me here. Hey, I'm rooted like a tree. Got to sit down, can't cry. Hold on, gonna die blue. Got to sit down, can't cry. Hold on, gonna die blue. Hey, yeah. High Flying Bird di Richie Havens, l'abbiamo sentita adesso, è proprio lui che apre le danze a Woodstock improvvisando, perché non doveva essere lui il primo cantante, ma un'altra band che però era bloccata nel traffico e quindi fu costretto a aprire questo mitico concerto. Improvvisando, pensate, per... Era tutto bloccato. Era tutto bloccato. Improvvisando per ben tre ore, Havens ha proprio ipnotizzato e conquistato il pubblico che gli chiede più volte il bis, e inizia proprio con questo pezzo, High Flying Bird, poi continua con delle cover dei Beatles e con Motherless Child, che è un celebre spiritual, che è un po' il suo cavallo di battaglia insieme a quest'altro pezzo. Di lui si può dire che John Lennon diceva di lui, anzi, che era un grande musicista, e ne parlava come se non lo conoscesse, ma in realtà lo stimava molto, che disse a proposito di questo genio della musica, con una bellissima voce. Credo ci sia un ragazzo di nome Richie Havens, suona la chitarra in modo strano, è un ragazzo nero che a un concerto cantò Strawberry Fields o qualcosa del genere. È come se lui suonasse con una corda sola tutto il tempo, suona una chitarra molto funky, ma non sembra in grado di suonare nel vero senso della parola. Io sono così, proprio come lui, e quindi, insomma, detto da Lennon, insomma, deve essere stato un bel complimento per Richie Havens, che aveva, pensate, mi pare 28 anni all'epoca di Woodstock. Non era piccolissimo, ma insomma non era neanche un cantante veterano. Sì, veterano. Mi ricordo dalle immagini che lui, per bloccare i tasti, non usava ad esempio l'indice come generalmente si fa, ma usava proprio il pollice. Sì, c'è un modo stranissimo di tenere la chitarra. Sì, aveva proprio una tecnica non proprio ortodossa nel suonarla. E invece di questo film, una breve cosa: si pensa a Motel Woodstock, chi non conosce la storia si pensa proprio che sia un film sul concerto, ma non lo è sulla storia di come questo concerto venne realizzato, e quindi c'è pochissimo del concerto in sé, non ci sono cantanti, non ci sono momenti che riguardano i musicisti, che, insomma. Ang Lee racconta proprio la storia di come tutto quanto nasce. E nasce tutto per caso, infatti, ma poi vi diciamo meglio. Sì, ne parlerà soprattutto il nostro ospite. Rispetto al secondo brano, tu avevi optato per una cosa un po' più lenta e un po' psichedelica. Psichedelica, sono gli Sweetwater. E gli Sweetwater erano proprio loro che dovevano aprire il concerto, ma arrivarono in ritardo. Sono proprio i fondatori di questa musica così psichedelica e un po' fusion anche. La voce di lei ricorda molto quella dei Jefferson Airplane. Vero, vero. E nel concerto di Woodstock furono molto potenti, perché entrarono in scena con una specie di orchestra con tantissimi strumenti, tra cui congas, banjo, violoncelli, e c'era nel gruppo anche un musicista, l'unico italiano, italo-americano credo io, che si chiamava, che era il tastierista, e si chiamava Alex Di Zoppo. Lo sapevi? No. Vedi? Neanch'io. Non si finisce mai di imparare. E nel film la colonna sonora, che è curata da un grandissimo del cinema, Danny Elfman, nella colonna sonora i brani si sentono tutti da lontano, proprio perché Ang Lee racconta una storia personale di Tiber e di Lang, che appunto diedero vita a questo mega concerto, e quindi sono sempre un po' lontani, un po' distorti, non si sentono mai in modo definito, però insomma, anche se non sono così presenti nella colonna sonora, sono talmente potenti che non si può fare a meno di comunque di accorgersene. E invece di Danny Elfman posso dirvi che è stato 4 volte candidato all'Oscar ed è uno dei compositori per musiche da film più importanti degli ultimi 25 anni, e è stato un po' anche il feticcio di Tim Burton, fa sempre lui le sue colonne sonore. Sì. Senti, vogliamo continuare come abbiamo in quella specie, quella scaletta che abbiamo approntato? Sì. Quindi continuiamo con appunto una voce femminile che ricorda molto quella appena sentita, è quella dei Jefferson Airplanes. Airplane è il brano abbastanza celebre, Volunteers. Bellissimo, sì, ascoltatelo. Versione studio, Versione studio, sì, non sì. Si sente il pubblico. No, Volunteers dei Jefferson Airplane, grande gruppo alfiere musicale dell'acid rock, e non fecero mai mistero di quanto fossero favorevoli al consumo di LSD. Si nacquero nel 1965 e nonostante massiccio uso di acidi pubblicarono 40 album, quindi forse fa anche bene. Chissà. E la voce femminile che tanto ci ricordava quella precedente dei Sweetwater era quella di Grace Slick. Sì, e questo brano fa parte di è stato suonato al Festival di Woodstock e fa parte dell'ultimo è l'ultimo sulla LP e fu accusato di anarchismo e di era insomma considerato ai tempi immorale perché insomma era un disco contro la guerra in cui si esaltavano la natura, la dimensione di comunità, di ecologia e le polemiche furono tante da parte dei conservatori che comunque ebbe naturalmente un grandissimo successo commerciale. In questo film Ang Lee, come vi dicevo prima, non parla del concerto ma prende le mosse dalla testimonianza di chi lo ha fondato, forse anche per non scimmiottare un famosissimo documentario che fu fatto proprio per celebrare questo concerto da Michael Wadleite, che pensate aveva come aiuto Martin Scorsese, e con questo documentario vinse anche un Oscar ed è veramente molto bello, è proprio su Woodstock e proprio sul concerto al contrario del film di Ang Lee. It's been a long, hard journey. I don't have to cry no more. They just keep your lamp burning, babe, so your man will know the score. One more mile, one more mile to go. Well, it's been a long, hard journey. But people, I don't have to cry no more. I did wrong when I took a gamble. I bet my money wrong. I was betting on my baby, and my baby wasn't at home. One more mile, just one more mile to go. Blues Paul Butterfield Blues Band, veramente un blues classico. Sì, One More Mile il titolo di questo pezzo. Paul Butterfield nasce nel 42 a Chicago ed è la voce del gruppo, è stato uno dei primi esponenti bianchi del Chicago Blues, armonicista dalle grandissime doti, è stato per il suo stile proprio un punto di riferimento per altri armonicisti moderni, per esempio come Mark Ford o Andy Just. E sebbene sia stato uno dei musicisti più significativi del suo tempo, pur avendo suonato con dei personaggi del calibro come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Steve Ray, Muddy Waters e Bob Dylan, è un artista relativamente poco conosciuto al grande pubblico, però è secondo me un grande anche per questa voce veramente calda, bella, avvolgente. Invece del film vi volevo raccontare per chi non lo conoscesse un pochino la trama. Il 15 agosto del 1969 a Michael Lang e i suoi collaboratori vengono negati i permessi per organizzare un festival musicale a Wallkill. Il giorno dopo un ragazzo di nome Elliot Tiber viene a conoscenza di questa notizia ed è lui e la sua famiglia che gestisce un motel fatiscente in fallimento a White Lake, dove da anni Elliot organizza una sorta di festival musicale di musica classica che raduna poche decine di persone, ha già i permessi per poterlo ripetere anche quell'estate, quindi l'occasione diventa perfetta, visto che nessuno stato d'America sembra voler concedere i permessi a Michael Lang per il suo concerto di fricchettoni, quindi Elliot prende la palla al balzo e propone a Lang il suo motel come base principale del festival e anche i terreni vicini, insomma si fanno tutti anche un po' la storia di un business, no? Un business che all'epoca era un business bello, però insomma sempre business, no? Sempre giro dei sordi, cose eccetera, però insomma va bene lo stesso. E così, tra l'incredulità generale dei presenti, nacque il più grande e celebre concerto di sempre. Continuiamo con un figlio d'arte, poi ne parliamo. Coming in from London, from over the pole, flying big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. There's a guy with a ticket to Mexico. No, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling, said it was a Lone Ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Walking on the moving floor, tripping on the escalator. Here's a man in the line and she's blowing his mind, thinking that he's already made her. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Ah, dal vivo, dal vivo. Questo è proprio Woodstock. È versione originale. E questo è proprio Woodstock. Arlo Guthrie, figlio d'arte, come dicevi tu. Suonò tre pezzi, tra cui questo brano, Coming into Los Angeles, che nasce proprio da una storia realmente accaduta, una storia accaduta proprio al nostro amico Arlo, che durante il concerto era naturalmente, come molti dei protagonisti, strafatto di acidi e si esibì dopo il diluvio universale che ci fu durante la manifestazione, e scrisse questo brano perché lui stesso racconta che Durante un viaggio, lui partiva da, stava volando da Londra a Los Angeles, aveva lasciato degli amici, c'era una grandissima turbolenza, però lui a questo giornalista dice che non ricorda esattamente l'anno, non ricorda perché stava partendo da Londra e stava arrivando a Los Angeles, non si ricorda quanti anni aveva e si capisce anche perché. Beh, insomma, durante questo viaggio ci fu una terribile turbolenza, neanche le hostess stavano in piedi, e lui cercò qualcosa nella borsa nella quale i suoi amici le avevano impacchettato dei regali, e per distrarsi li aprì, perché gli avevano detto di aprirli una volta arrivato a Los Angeles, perché doveva essere una sorpresa. Invece lui, per distrarsi da questo viaggio un po' impaurito, aprì questo pacchetto e immaginate bene che cosa ci trovò dentro. E quindi da lì iniziarono delle paranoie terribili per Arlo, che arrivò però a destinazione e gli agenti di polizia non toccarono mai il suo bagaglio, e fortunatamente la fece franca. Questo aneddoto ci conduce all'ospite di questa settimana, che ritroviamo dopo poco più di un anno sempre a Tracce di Cinema. Alberto Crespi, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, come state? Era un po' di tempo. E bene, non posso parlare per Ottavia, che ti dirà lei. Vabbè, io non tanto, ciao, non tanto, Ottavia. Io non tanto, diciamo, mettiamola così. Ho visto periodi migliori. Ne abbiamo visti tutti. Allora, sentendoci ieri, Alberto, mi dicevi che c'era stato anche un incontro con Ang Lee proprio per l'occasione del film, se non sbaglio. Ma il film di cui parliamo è Motel Woodstock, sì, giusto? Esatto. Taking Woodstock in originale. Esatto. Il film era stato presentato in concorso a Cannes, e mi ricordo benissimo la conferenza stampa di Cannes, appunto, di Ang Lee e di alcuni degli attori. E poi non mi ricordo se fu organizzato anche un incontro quando il film poi uscì in Italia nell'autunno di quell'anno. Parliamo del 2009. 2009, che tra l'altro era una ricorrenza, erano 40 anni. Anni da Woodstock, perché Woodstock è stato nell'estate del 1969. Il film a me era piaciuto, non è un film amatissimo online, ho visto che non ha una media voto altissima nei siti specializzati, e non è stato nemmeno un grande successo di pubblico negli Stati Uniti. Però anche a me, devo dire, non è piaciuto molto. A me non era dispiaciuto, mi era sembrato uno sguardo dall'altro lato dello specchio, non so come dire, come quando Alice passa attraverso lo specchio e vede tutte le cose sotto un altro aspetto, no? Sì. Noi naturalmente crediamo di sapere tutto di Woodstock, perché abbiamo visto, non perché c'eravamo, nessuno di noi aveva l'età giusta per esserci. E chi c'era però, veramente, probabilmente neanche si ricorda bene che cosa ha fatto, cosa ha visto, no? È probabile, sì, è probabile. Però abbiamo visto il film ufficiale del festival, sì, che è stato anche riproposto in un'edizione più lunga anni dopo. Tra l'altro, diretto da Michael Wadley, tra i montatori c'era anche Martin Scorsese. Sappiamo tutto del mito di Woodstock, e sappiamo come quel mito venne distrutto nel giro di pochi mesi da altri raduni, dove la pace, l'amore e la musica, insomma, rimane la musica, ecco, la pace e l'amore passarono un secondo piano. Motel Woodstock è invece uno sguardo dal punto di vista di chi ha lavorato a Woodstock dietro le quinte, ecco. È la storia tratta da un libro autobiografico di Elliot Tiber, della famiglia Tiber, appunto, che mise a disposizione il proprio motel nel paesino di Woodstock, che è un paesino non molto lontano da New York, come centro logistico dell'organizzazione, per così dire. Sì. Nel film e nel libro di Tiber si dice anche che fu Tiber a portare gli organizzatori da Max Yasgur, che era uno dei proprietari terrieri che avevano la tenuta più vasta, e sul cui terreno venne appunto costruito il palco e si svolse effettivamente la manifestazione. Poi c'è stata qualche polemica, perché gli organizzatori del festival, Michael Lang in primis, dissero che in realtà loro erano arrivati a Yasgur per altre vie. C'è sempre un po' la diatriba tra chi dice io c'ero, ho fatto questo, e un altro dice no, c'ero anch'io e tu non hai fatto nulla, ho fatto tutto io. Sono quelle cose che probabilmente risolvibili, siamo a livello di assemblee di condominio, di grandi assemblee di condominio. Ciò che conta è che appunto la storia ci conferma quello che viene raccontato nel film, ovvero che Tiber chiamò gli organizzatori, che non avevano ha avuto l'autorizzazione in un paesino vicino e gli disse: vabbè, ma se volete venire a Woodstock noi vi mettiamo a disposizione tutto, tanto quanta gente verrà? 20-25 mila persone? Poi invece ne vennero quante? 500 mila? Ecco, e tutto esplose naturalmente, tutto divenne un caos enorme, però molto, credo, molto creativo e molto divertente per chi c'era. Qua la pioggia, come ricordiamo tutti, dal documentario a un certo punto si vede che suonano nel fango, e ci fu tutta la leggenda intorno a Woodstock che gli organizzatori di Woodstock non avevano minimamente previsto, perché la leggenda non si prevede, la leggenda arriva e fa quello che vuole lei. Sì. Senti, Alberto, rispetto all'opera di Ang Lee, stavo dando un'occhiata a ritroso ai suoi lavori, lo abbiamo conosciuto il primo successo internazionale è stato il banchetto di nozze, sì, l'abbiamo conosciuto lì, anche se non era il primo film, ma quello che lo ha fatto conoscere, sì. E poi era un po' un vizietto ambientato a Taiwan. Sì, sì. E dopo, sì, la storia era molto simile, sì, sì, sì, sì. E dopo una specie di tripletta di successo internazionale, perché poi seguì Mangiare, bere, uomo, donna e Ragione e sentimento, sono arrivati un paio di titoli e un po' più sottotono, a mio modo di vedere, che sono Tempesta di ghiaccio e Cavalcando col diavolo, rispetto ai suoi a quanto era rimasto nell'immaginario con le opere precedenti. E c'è stato poi un secondo ciclo di successo che è partito dalla Tigre e il Dragone. Di questo secondo ciclo io sono due i lavori che ho amato particolarmente di questo regista, che sono I segreti di Brokeback Mountain e Lussuria. Sì. Non so se sono i due leoni d'oro. Sono i due leoni d'oro. Con esatto. Cui lui ha vinto due leoni d'oro di Venezia. Sì. È un cineasta molto premiato inglese. Sì, sì, anche con l'Oscar, sì. Sì. Non so come la vedi tu rispetto al suo percorso. Ang Lee è forse il regista più eclettico del mondo, nel senso che se tu metti insieme tutti i suoi film, se ti facessero un quiz, ti facessero vedere i suoi film e ti dicessero quanti registi hanno fatto questi film, tu diresti almeno 4 o 5. Sono film molto diversi l'uno dall'altro. Sì. Alcuni sono, tra l'altro, a cominciare dalla non tanto dalla nazionalità, passaporto, ma proprio dall'area culturale a cui fanno riferimento. Cioè, lì ha fatto film dichiaratamente cinesi, molto legati alla tradizione del cinema cinese, come La Tigre e il Dragone. Ha fatto film cinesi, ma con uno stile, un linguaggio, una tematica aperta all'Occidente, come Banchetto di nozze, che si ispira abbastanza dichiaratamente a un film occidentale e racconta una tematica come quella dell'omosessualità, che in Cina non è così ovvia. E poi ha fatto film hollywoodiani a tutti gli effetti, quindi ha fatto un percorso, ha fatto una carriera estremamente diversificata, in cui è molto difficile individuare delle costanti d'autore, ma proprio perché Ang Lee non è un autore come lo intendiamo noi europei, spesso forzando un po' i termini della parola. Ang Lee è un regista che è quello che i francesi definirebbero un metteur en scène, cioè un regista che sa raccontare, impaginare, mettere sullo schermo con grande eleganza e con grande classe le storie più diverse. Motel Woodstock ovviamente è una storia che non ha nulla a che vedere con la Cina, che poteva essere tranquillamente diretta da un regista americano, ma la verità è che Ang Lee, dopo Brokeback Mountain, dopo gli Oscar eccetera eccetera, è diventato a tutti gli effetti un regista americano, uno dei più americani dei registi orientali, dei tanti registi orientali che sono andati a Hollywood negli ultimi 20-30 anni. Altri hanno continuato a fare film comunque legati alla loro cultura, al loro paese di provenienza. Ang Lee, forse perché viene da Taiwan, quindi non viene dalla Cina comunista, ha avuto un percorso anche personale completamente diverso, forse perché a differenza di altri registi suoi conterranei parla inglese molto bene, quindi lavora con grande facilità anche con attori americani, eccetera eccetera. È veramente un regista cosmopolita, ecco. Mm-hmm. È forse uno dei registi più cosmopoliti che ci siano in circolazione. Mm-hmm. Anzi, dovessi dirne uno più cosmopolita di lui, devo dire, farei molta fatica. Senti, forse Roland Emmerich. che è tedesco, Roland ma Emmerich, che fa film che con la Germania non c'entra. Sì, tra l'altro nulla, abbiamo Godzilla, Independence Day. Sì, sì, tra l'altro abbiamo proposto Stonewall per la colonna sonora qualche settimana fa. Abbiamo, ecco, vedi, abbiamo scelto qui c'è quello. Un legame che in realtà poi non è un legame, perché Emmerich ha fatto questo film Stonewall e per lui è stato anche una specie di coming out, sì, perché sì. Emmerich è notoriamente, dichiaratamente, militantemente, si può dire, gay, e però aveva sempre fatto film pieni di testosterone come appunto Independence Day piuttosto che altri film. Ang Lee ha fatto molti film a tematica gay, perché Banchetto di nozze non è l'unico, però Black Mountain lo è in modo clamoroso, sì. Però non è gay, almeno non che io sappia, e poi non voglio scendere sul piano dei pettegolezzi, non lo è in maniera dichiarata e conclamata, come invece alcuni artisti gay fanno giustamente dal loro punto di vista. Però c'è questa specie di filo rosso nei suoi film che evidentemente lo incuriosisce, come può incuriosire qualunque persona di qualunque orientamento sessuale, politico. Certo. Ecco, cioè i film di argomento gay non sono esclusiva dei registi gay. Certo. Ecco. Allora Alberto, rispetto alle musiche del film c'erano stati per lui dei problemi di diritti volevo chiederti anche rispetto al concerto vero e proprio, le sue scelte nel film, se ti hanno convinto. Dunque, se ricordo bene, lui aveva avuto un problema di diritti molto semplice ma al tempo stesso insormontabile, ovvero non ha potuto usare, non li vedo fin da allora, quindi potrei citare memorie sbagliate, ma non ha potuto usare immagini del concerto. Questo è vero. E credo non abbia potuto usare nemmeno brani musicali presi dal concerto. Sì. Infatti mi ripercorrevo la colonna sonora e ho visto che ci sono brani di artisti che erano Woodstock, ma credo siano presi da altre fonti. Versioni studio, dischi, probabilmente, perché versioni di studio e così via. Sì, sì. Non ci sono i perché le riprese del concerto sono ancora di proprietà degli organizzatori del concerto, che a loro volta erano stati produttori del film di Michael Ward, del film ufficiale a cui accennavamo prima. Quindi il concerto nel film non si vede, e questa è una di quelle, come dire, di quegli obblighi che sono dei limiti naturalmente, ma in arte, come sappiamo, il limite può diventare uno stimolo. Non potendo utilizzare il concerto e non potendo ovviamente mettere in scena il concerto con un tizio che va lì e che interpreta Jimi Hendrix, per dire, per fortuna non l'ha fatto, si è dovuto inventare di girare tutto il film da dietro le quinte, come dicevo prima. Però questo è un limite. Scusami Alberto. Questo è un limite, nel senso che credo che chiunque sia andato a vedere questo film durante il film si aspetta di dire: vabbè, ma quando è che inizia il concerto? Quando è che mi fanno vedere Janis Joplin, per dire? Però non poteva essere così, sì. Il film è un'altra cosa e forse è una cosa più interessante. Certo. Beh, ma proprio la tagline era proprio l'incredibile storia del concerto che ha cambiato la storia, non è? Esatto. Cioè, si parla come di come è nato. E comunque, a proposito del bellissimo documentario originale di Wadley, che non so pronunciare, credo Wadley, e Ang Lee lo cita in qualche modo all'interno del film, perché c'è la scena iniziale in cui si vede, insomma, questo schermo diviso in varie parti, no? È un po' una situazione, perché c'è una stessa, ci sono varie immagini anche nel documentario, proprio espresse con questa forma molto fine 60. Sì. era si chiama lo split screen, non lo schermo diviso in che contiene contemporaneamente varie inquadrature. Sì. Andava di moda in quegli anni. Perché, beati loro, erano anni in cui nessuno pensava alle videocassette, ai DVD, ai film da vedere in televisione o addirittura sullo schermo del telefonino, perché pensate Woodstock visto appunto sullo schermo di un iPad, per cui le immagini diventerebbero minuscole. Infatti è una moda che poi è passata. Sì. Ci sono stati anche, è una moda che in un documentario poteva anche funzionare, infatti Woodstock aveva un suo perché, naturalmente. Ci sono stati anche film narrativi costruiti così, uno me lo ricordo era Lo strangolatore di Boston di Richard Fleischer. Nei film narrativi secondo me dava un po' fastidio, sì, però in Woodstock aveva una sua ragione d'essere. Sì, fa anche vedere più della... girato in contemporanea, sì, quindi un po' quello, un po' darti la sensazione di essere in più punti contemporaneamente. Sì, sì, sì. Sì, sì, è quella naturalmente, giusto Ottavia, io non me lo ricordavo, ma quella da parte di Anglia, no, è certamente. Non è che me lo ricordavo dal 2009, ho rivisto il film e quindi l'ho notato. Brava. Ecco. Senti Alberto, in chiusura, c'è un film in questa stagione o più film in questa stagione di cui hai amato le musiche e ti vengono subito in mente? Oddio, domanda all'impronta, e vediamo se mi viene in mente qualcuno. No, oddio, non ci sono state folgorazioni musicali. Vediamo gli altarini agli ascoltatori. A volte una domanda te la dicono prima, così tu puoi prepararti, perché a sto giro. No, però qui funziona. Dimmene uno tu. Funziona impressione. Beh, per esempio, Stonewall l'abbiamo visto, abbiamo detto subito: facciamolo, perché la colonna sonora è molto bella. Sì. Molti brani, anche pochissimo conosciuti, io non ne conoscevo molti, per cui è stata anche una sorpresa da questo punto di vista. Sì, sicuramente è vero. No, non me ne vengono in mente altri. Vuol dire che non ti hanno folgorato, dai. Forse no, forse una stagione un po' così per sì, la musica. Sì, sì. Ci rifaremo. Alberto, io ti abbraccio, è sempre un piacere e ci sentiamo presto. Piacere mio. Statemi bene. Okay. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Drunk. Doors che tanto amo, questa era Maggie McGill, che se loro non si esibirono a Woodstock. No, assolutamente no. Questo pezzo bellissimo fa parte di del quinto album dei Doors, Morrison Hotel, del 1970, che però non fu ben visto dai fans dei Doors, perché rispetto a quelli precedenti fu considerato molto meno onirico e ribelle per quanto riguarda i testi, però fu molto amato dalla critica e comunque anche dal pubblico, perché le sonorità erano musicalmente era più sviluppato, certo. sì, non si può dire proprio niente altro che questo. E la canzone Maggie McGill, oltre che fa parte di questa tracklist, fa parte anche della colonna sonora del film di Bertolucci, The Dreamers, del 2003, perché Bertolucci è molto attento nella scelta delle sonorità per quanto riguarda i suoi film. Noi abbiamo anche fatto Io ballo da sola, che non ci piaceva, però era una bella colonna sonora. E mi ricordo, adesso che pensiamo a chiacchierà, che è molto bella anche la colonna sonora di Io e te, il titolo. Mm-hmm. Quello tratto dal libro di Amaniti. Mi sembra di sì. È molto bella anche quella. Continuiamo perché abbiamo poco tempo e ancora tanta musica. Steve Winwood. Buon ascolto. Steve Winwood in versione acustica, Can't Find My Way Home. Poi io la conoscevo nella versione con i Blind Faith. Steve Winwood, polistrumentista, uno dei monumenti del rock di tutto quel periodo, anima di gruppi come i Blind Faith e soprattutto i Traffic. Sì, sì, era insieme a Clapton nei Blind Faith. Esatto. Che pubblicarono solo questo disco, poi si sciolsero, ognuno prese la sua strada, però fu in testa alle classifiche, vinse un disco d'oro e nel primo mese furono vendute soltanto, pensate, mezzo milione di copie. Oh, siamo quasi, ci stiamo stretti con i tempi perché c'è tanta musica bella. Tanta musica, continuiamo. Parliamo con poco. La perla. Janis Joplin. Perché? Just a little bit harder. La sfumiamo qui. Dal vivo Janis Joplin con Try Just a Little Bit Harder, tratto dall'album pubblicato postumo dopo la sua morte nel 71. Janis Joplin morì nel 1970, qualche giorno dopo la morte anche di Jimi Hendrix, un altro grandissimo. E Pearl è il titolo di questo album, che raccoglie veramente delle perle. Una di queste è proprio questo brano, era il soprannome proprio con cui la chiamavano gli amici ed era veramente una perla. Continuiamo con la musica, siamo ai saluti, intanto diciamo ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è tracce di cinema@ondarossa.info, per sottoscrivere conto corrente postale 6180 4001 per Radio Onda Rossa. È tutto, ci salutiamo con i Canned Heat. Cosa diciamo su di loro? Beh, su di loro c'è una. Dico soltanto questo: sì. una delle strofe di questo brano. Una delle più belle. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Ed è diventata l'inno non ufficiale del Festival di Woodstock, non per caso. A giovedì prossimo. Gotta get going, well I can't stay along now. Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam, baby, find me a brand new home. Gotta get going.